Scuola in controluce. Siamo tutti fuori, stiamo cercando di sapere, raccogliere le cose necessarie ai ragazzi per mandarle a casa. Siamo tutti fuori, sì. Sono tutti evacuati, ragazzi, per adesso, cioè, siamo tutti fuori, è stata una bella scossa. Così ci raccontavano le insegnanti in quei giorni terribili del terremoto in Emilia, tutti fuori dalle scuole e di corsa, lasciando zaini, quaderni, registri, tutto il materiale di segreteria. Un filo che si è spezzato bruscamente in Emilia e che oggi si riannoda. L'avevano promesso del resto le autorità. A settembre ad ogni costo si torna sui banchi. I ragazzi devono ritrovare la loro normalità e la normalità passa proprio dal ritrovare i compagni, gli insegnanti, riaprire quei libri e quei quaderni lasciati aperti sui banchi il giorno della scossa più forte. E allora vi vogliamo oggi raccontare a Scuola in Controluce questo primo giorno di scuola, collegandoci proprio con l'Emilia e cominciando dal quadro generale, sì, perché oggi qualcuno ha fatto lezione in una scuola ospite e questa, insomma, nella migliore delle ipotesi, oppure sotto delle tenso strutture, oppure in un albergo, in una parrocchia, su un campo da tennis ristrutturato. E allora sentiamo dunque com'è la situazione da Stefano Versari, vice direttore generale dell'ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna. Beh, è una situazione, l'anno scolastico è partito, le 551 scuole dell'Emilia Romagna è partito l'anno scolastico in tutte le scuole tranne 14 scuole. Queste 14 scuole l'anno partirà entro la prossima settimana tranne due che inizieranno il 1 d'ottobre. Diciamo che, tenendo conto che sono stati danneggiati 230 edifici con 65.000 alunni in scuole terremotate, è un grande risultato. C'è stato qualche momento in cui voi come istituzione avete pensato non ce la faremo mai il 17 settembre a riaprire le scuole? Spero di non passare per stupido, mi creda, fin dall'inizio, per tutto il periodo abbiamo avuto la convinzione che comunque noi dovevamo ripartire e questa è la linea, che la rotta che ci ha guidato, e trovando anche soluzioni alternative. Ma perché questa tenacia nel dover ripartire? Non solo per consentire il diritto allo studio, ma perché i bambini che hanno perso case, abitudini, luoghi di socializzazione, a loro è fondamentale rioffrire uno spazio di normalità, seppur in un contesto difficile. E quindi per noi era importantissimo che la scuola partisse quest'anno per un motivo in più, per consentire a loro di ritrovarsi, oltre che per assolvere il diritto allo studio. Diritto allo studio garantito dunque oggi per tutti. Da parte sua il ministro della pubblica istruzione Francesco Profumo ha messo a disposizione fino a 500-600 docenti in più in via eccezionale e straordinaria, proprio per fare in modo che le cose si svolgano da oggi anche in Emilia nel migliore dei modi possibili. E allora, insomma, sentiamolo come è andato questo primo giorno di scuola. Ci colleghiamo con Raffaella Pellecani, che è la dirigente scolastica della direzione didattica di Cavezzo, Medolla e San Prospero, dei nomi che abbiamo imparato a conoscere purtroppo nei giorni del terremoto, e alla guida di 7 scuole fra infanzia e primaria. Buongiorno signora Pellecani. Buongiorno. Allora, com'è andata questa mattina? Beh, veramente sono sincera nel dire che ero molto preoccupata, ma è andata molto bene, perché ho girato praticamente tutti i comuni, ho visitato praticamente tutte le situazioni, sia le poche all'interno degli edifici scolastici agibili o che ci hanno restituito negli ultimi giorni, e anche nelle strutture temporanee, tenso strutture, pala verde, che poi in realtà è il campo da tennis coperto. Ecco, perché come sono sistemati i suoi bambini? Allora, nei tre comuni hanno delle sistemazioni molto diversificate a seconda dello stato di salute, tra virgolette, degli edifici. Allora, Cavezzo, che è stato sicuramente il comune più colpito, dove ancora adesso, andando in giro per le vie del paese, si vedono le macerie degli edifici ad uso civile, abbattuti, quindi veramente uno scenario terribile, i bambini non hanno potuto essere ospitati dentro a degli edifici chiusi, tranne che in due situazioni. Alcune classi, le prime, abbiamo cercato di salvaguardare i più piccoli, sono dentro al Palaverde, che è una struttura nuova di zecca inizialmente utilizzata, cioè dopo le scosse del maggio scorso, utilizzata per ospitare le persone senza casa, senza tetto. Adesso il Palaverde è stato messo a disposizione delle scuole, altrimenti i bambini trovano collocazione sotto delle tensostrutture, quelle utilizzate nei centri estivi. Queste tensostrutture sono state migliorate per quanto riguarda l'accoglienza, la vivibilità, perché sono state pavimentate, sono state messe delle passerelle. Le piogge delle settimane scorse ci hanno messo in evidenza tutte le difficoltà. Insomma, se dovesse ripiovere non dovrebbe essere bella situazione, sì. Però dovrebbe essere temporanea, dico bene? Sì, temporanea, perché noi abbiamo il grande progetto, condiviso con la regione naturalmente, con le amministrazioni locali, di mettere i bambini dentro delle strutture prefabbricate molto molto belle. Quando? Insomma, molto belle. Metà ottobre, questa è la nostra previsione più realistica, perché potrebbero essere anche disponibili prima, ma noi pensiamo che, insomma, tra una cosa e l'altra potremo andare a prima di metà ottobre. Non si potrà fare. Senta, sarà signora Pellecani, lei questa mattina è stata in mezzo ai bambini, sì, ricordiamo, sì, sono scuole, sì, dell'infanzia e scuola primaria, quindi bambini, sì, dai 3, sì, ai 10 anni, insomma, sì. Che facce facevano, come hanno reagito a questa nuova, insomma, soluzione? Guardi, bene, io ho visto anche i genitori che accompagnavano i bimbi in prima, e va bene, per loro non c'era il ritorno in un edificio conosciuto, c'era una situazione completamente nuova da vivere, però ho visto i visi dei genitori, li ho visti molto sereni, anche i bambini sistemati comunque molto dignitosamente, tutte le sistemazioni sono state ricercate con cura ed attenzione, in collaborazione con le amministrazioni, quindi va bene, la preoccupazione per il maltempo resta, ma siamo convinti di aver fatto tutto il possibile in questa difficile situazione. I bambini erano molto sereni, anche gli altri più grandi, di quarte, di quinte, i bimbi quindi che tornavano in una situazione scolastica molto diversa, cioè non più tra le pareti della loro aula, io li ho trovati bene, li ho visti bene, li ho visti tranquilli, li ho visti. Forse anche il fatto di non stare fra quattro mura è per loro rassicurante, perché insomma la paura non sarà del tutto passata. Ma questa è una preoccupazione molto grande per i genitori, però noi abbiamo preparato con assemblee, incontri per gli insegnanti, sia con il responsabile della sicurezza, sia con una docente di psicologia molto in gamba che abbiamo conosciuto al campo Abruzzo di Cavezzo. Avevamo preparato gli insegnanti a questo rientro, sia per la gestione dell'emergenza, sia anche per l'accoglienza degli alunni, a capire i segnali, tutto ciò che poteva così preoccuparci nel comportamento dei bambini. E abbiamo fatto delle assemblee per incontrare i genitori prima di partire con l'anno scolastico, per riallacciare i rapporti con loro. Insomma, tutti sapevano stamattina cosa li aspettava, sì, e tutti comunque erano contenti di rivedersi, perché insomma c'era stata, come dicevamo, una brusca interruzione. Grazie a Raffaella Pellecani, dirigente scolastica della direzione didattica di Cavezzo, Medolla e San Prospero. Noi invece ci spostiamo a Sant'Agostino, il paese che ha contato diversi morti, fra cui due operai, il paese che è diventato un po' uno dei simboli del sisma in Emilia, con il campanile che è venuto giù, lo ricorderete sicuramente. Mauro Borsarini è il preside a Sant'Agostino di una primaria e di una media, ma dirige anche a Cento un istituto superiore con 1200 studenti. Buongiorno Borsarini. Buongiorno. Allora, anche a lei chiedo com'è andata stamattina, insomma, lei i suoi ragazzi li ha incontrati, li ha visti in faccia, erano contenti anche loro di tornare a scuola, e in che scuola, le chiedo? Certo, guardi, la situazione è differenziata anche da noi, come ha detto bene, a Sant'Agostino ho ritrovato lo stesso ambiente che diceva la collega Cavezzo. Gli studenti, anche i più piccoli, sorridenti, con la voglia di rivedersi, di tornare a scuola, i genitori che parlavano tra loro, parlavano con gli insegnanti, veramente un bel clima, la voglia di rivedersi, di ritrovarsi. E qui a Cento invece, nella scuola, all'Istituto Superiore, abbiamo avuto un evento molto importante, perché ci è venuto a trovare proprio Vasco Arrani, il commissario straordinario, perché abbiamo inaugurato dei moduli provvisori che sono già pronti e alla fine di questa settimana potremo già andarci dentro. Quindi stamattina l'avete visti, l'avete inaugurati, fra qualche giorno, esatto, sarete in prefabbricati sostanzialmente. Esatto, avremo una diciamo, sistemazione differenziata, un po' nei moduli provvisori, un po' negli edifici che sono rimasti agibili, e quindi riusciremo anche qui all'Istituto Superiore con 1200 studenti, con i nostri doppi turni, a far avviare completamente l'anno scolastico. Che dicono gli insegnanti? Com'è stata stamattina la reazione dei ragazzi? Poi una volta chiuse, non so se si possa dire le porte delle aule, perché insomma in alcuni casi aule non ce ne sono. Certo, proprio qui con me la professoressa Valentina di diritto, che ha fatto lezione stamattina, e la passo volentieri per un commento. Assolutamente. Allora signora, lei che è stata per qualche ora con i suoi ragazzi, che cosa le hanno detto? Ma i ragazzi sono apparsi molto, molto sereni e non hanno assolutamente parlato né di terremoto né di situazioni, insomma, che ricordassero. Sono tutti proiettati verso il futuro, erano pieni di entusiasmo e stranamente anche molto composti. E pronti per iniziare, vogliosi proprio di iniziare. Bene, allora a tutti voi davvero gli auguri nostri, gli auguri di Radio 24, perché possa ricominciare questo anno in maniera serena. Prima di chiudere vi voglio consigliare, che siate voi studenti, insegnanti, genitori, vi voglio consigliare un libro, Junior 24, che uscirà mercoledì, allegato al Sole 24 Ore con 50 centesimi più, un libro per spiegare l'economia e la finanza ai più giovani. Pensate che il 24 settembre, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico al Quirinale, ne saranno distribuite dal MIUR 200 copie. Allora, per riascoltare la trasmissione potete andare sul sito di Radio 24 e cliccare sulla pagina di Scuola in Controluce. Domani alle 13.30 invece torna Italia in Controluce. Un saluto da Maria Piera Ceci.